Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Navi Pillay, ha affermato che affossare la legge contro l'omofobia è stato un passo indietro per l'Italia. Non sarebbe una bella occasione per la Chiesa per fare un passo avanti? Per fare un gesto simbolico a favore degli omosessuali? Potrebbe dichiarare pubblicamente che dal catechismo della Chiesa Cattolica saranno cancellati definitivamente i pessimi articoli che li riguardano. Ne riporto alcuni passi. La tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale. Ecco, qui la Chiesa si affida alla tradizione, non al Vangelo, e rinuncia alla ragione. Bisognerebbe infatti non solo dimostrare che cosa è intrinsecamente ordinato e cosa non lo è in tutti gli atti che gli uomini compiono ogni giorno, ma anche dimostrare che disordine sia uguale a peccato. Il celibato contrasta col comando del Signore: siate fecondi e moltiplicatevi. Però non è peccato. Astenersi dall'amplesso nei periodi fecondi, metodo consigliato dalla Chiesa agli sposi, è un atto contrario alla legge naturale, però non è peccato. Mangiare una bella pizza quando abbiamo già cenato e non ne abbiamo punto bisogno non è peccato. Si potrebbe continuare all'infinito. Un altro passo del catechismo. Gli omosessuali devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. Che bontà! Significa: gli omosessuali sono dei poveri disgraziati, ma non dovete bruciarli nei forni crematori. Non dovete impiccarli, picchiarli, bastonarli. La Chiesa, che è madre e maestra, vi dice: abbiate compassione di loro. Ancora, le persone omosessuali sono chiamate alla castità, il che significa: cari omosessuali, poiché ogni atto di omosessualità è peccato, per tutta la vita dovete astenervi anche dal dare un bacio alla persona amata. Renato. Siamo il paese in cui si fa una nuova legge per ogni nuova classificazione di reato. L'aggressione di un gay è di gravità pari o forse anche inferiore all'aggressione di un barbone per noia, e quindi non è mossa da pregiudizi. Una legge non fa che ghettizzare ed accrescere l'insofferenza verso il diverso. Onestamente mi sentirei a disagio se appartenessi ad una categoria protetta, cosa che porterebbe a comportamenti e reazioni eccessive. Davide. Con la proposta di legge sull'omofobia emerge per l'ennesima volta il problema della sessofobia all'interno della Chiesa e di riflesso di parte della politica. Quante volte infatti nei confessionali i fedeli si sentono porre domande sui peccati relativi alla sfera sessuale? Ragazze alle quali si chiede esplicitamente se siano ancora vergini, ai ragazzini se guardano filmati pornografici, alle donne se tradiscano i loro mariti. Però non ho mai trovato in un confessionale un sacerdote che, ricordandomi l'altro comandamento, non rubare, mi abbia chiesto se pago tutte le tasse, se pago il canone RAI, se richiedo o emetto tutte le ricevute fiscali. Emanuele Cuneo. Se puniamo chi offende gli omosessuali, allora dobbiamo punire anche chi offende neri, cinesi, le persone di bassa statura e diversamente abili. Rischiamo di infilarci in un ginepraio inestricabile. Purtroppo tolleranza e senso civico non si possono insegnare con le punizioni. Mattia. Ci mancavano solo le ronde arcobaleno. Poi arriveranno le ronde viola, rosse, nere e a pallini. E tutti si scandalizzeranno se il presidente di turno degli Stati Uniti manda soldati per tutelare ordine e democrazia in zone calde. Non sono ronde anche loro? Poi questi omosessuali, anche loro sono nati da mamma e papà e non, per ora, da papà e papà o mamma e mamma. Sono persone come tante altre, a me non danno fastidio, fino a che non cercano di mettere me in minoranza. Ma quello che più mi imbelvisce è perché mai un omosessuale, dichiarato o presunto, debba avere più diritti delle persone normosessuali. Insomma, se uno viene picchiato o rapinato, chi se ne frega se è omosessuale, lesbico, di destra, di sinistra, se tifa per l'Inter o per la Roma. Quindi, non vorrei che fossero tutte mosse mirate a dare uno strapotere a delle categorie di persone che lamentano il fatto di essere diverse. Insomma, non vorrei arrivare al fatto che mandare a quel paese un omosessuale per qualunque motivo produca una punizione maggiore che mandare a quel paese il Presidente della Repubblica. Fabio. Egregio direttore, Le scrivo a proposito del provvedimento sull'omofobia votato in Parlamento e a mio parere giustamente bocciato. Fermo restando che mi ritengo una persona liberale e pertanto credo che chiunque abbia il diritto di fare ciò che vuole con la propria sessualità e al contempo ritengo che l'aggressione fisica sia sempre esecrabile, mi chiedo se sia giusto emanare provvedimenti a tutela solo di determinate categorie di individui o se questa non sia piuttosto una forma di razzismo al contrario. Insomma, siamo o non siamo tutti uguali di fronte alla legge? E allora, perché aggredire alcune persone dovrebbe essere considerato un atto più grave che aggredirne altre? Non ci sono solo gli omosessuali in questo ghetto positivo. Ci sono le forze dell'ordine, per la cui aggressione sono previste forti aggravanti. Ci sono le donne, ci sono i neri, per i quali c'è l'aggravante di razzismo. Mi pare che questo atteggiamento dei nostri politici, abituati a legiferare sull'emergenza del momento, si ritrovi generalmente in tutte le nostre leggi, dove incapaci di punire la colpa e il danno in quanto tali, ci si sfoghi in leggi aggravanti o viceversa in leggi per la prevenzione. Ad esempio, se un automobilista uccide un pedone, probabilmente non farà un giorno di galera, mentre a fronte di un assassino in libertà ci sono migliaia di persone che si trovano la patente ritirata per un bicchiere di vino di troppo. Insomma, non crede che si debba tornare a punire il crimine vero e proprio e che debba passare in secondo piano la causa del crimine stesso? Aggredire un'altra persona dovrebbe essere un reato sempre e comunque, indipendentemente dalle motivazioni. Causare un incidente automobilistico dovrebbe avere sempre le stesse conseguenze penali, sia che ci si trovi sotto droga o alcol o semplicemente ci si sia distratti per una telefonata. Io immagino un paese dove al cittadino sia lasciata più libertà e contemporaneamente gli si chieda più responsabilità nelle proprie azioni. Siamo adulti, no? Marcello. Questa battaglia personale a Berlusconi mi ha stufato e trovo assurdo che nessuno riconosca che oltre alle vicende di Noemi e della Daddario, questo governo abbia fatto delle cose belle. E tra queste ci sono gli interventi per l'Abruzzo. Non si può fare solo critica distruttiva. È possibile che questa sinistra non riesca a fare un'opposizione costruttiva e non solo una battaglia contro Berlusconi? Sinceramente, sempre più spesso, mi domando di cosa parlerebbero la sinistra, la stampa, i comici se non ci fosse il Berlusca. Secondo me, dietro questo accanimento, si nasconde un profondo vuoto di valori e di principi, di iniziative e di programmi da parte della sinistra e di tutta la loro compagnia. I toni adesso stanno veramente passando il limite, però anche in questo caso il verde non è verde per tutti. Quindi se Berlusconi insulta, si deve dimettere, deve cospargersi il capo di cenere. Invece se un cretino scrittore spagnolo o portoghese chiama ratto il nostro presidente del Consiglio, allora è tutto ok. Ma se si offende la Bindi, allora ci mobilitiamo, se si offendono la Carfagna o la Gelmini, allora va tutto bene, tanto loro sono di destra. Anche in questo caso l'insulto, la parola sopra le righe, è e deve essere tale a destra e a sinistra. Non so, stiamo vivendo un momento veramente particolare e quello che noto attorno a me è che la gente non si interessa minimamente alla politica, a quello che le capita intorno, ma anzi preferisce vivere in una beata ignoranza e seguire bovinamente, senza alcuna critica, le varie correnti, farsi vivere senza alcun filtro. L'importante è che il proprio giardino sia sempre in ordine. Tanto chi se ne frega di quello che lasciamo a chi verrà dopo? È sempre la solita mentalità, molto meridionale, sono di Lecce ed è per questo che mi permetto di dirlo, che l'importante è che la propria casa sia pulita in ordine, ma fuori dal portone ci può essere una montagna di spazzatura. Che tristezza. Io mi reputo una persona giovane e nel mio piccolo ogni giorno è una battaglia per le cose che reputo non andare bene. Ho sempre meno capelli in testa, ma almeno so di avere una testa che funziona, che lavora, e so di lasciare una degna eredità di principi a mio figlio. Però alcune volte mi sento una marziana e la gente mi guarda come se fossi matta se pretendo che sulle spiagge del Salento la gente si porti a casa la propria spazzatura, invece di lasciarla come lascito per i posteri. Barbara. Ho ascoltato la registrazione della telefonata di Berlusconi a Porta a Porta. Nei 10 minuti che precedevano la telefonata di Berlusconi, la dolce Rosy Bindi paragonava il premier niente meno che a Hitler, tanto da provocare nei partecipanti una reazione notevole. Di ciò non ha accennato più nessuno. Pasquale. Sono d'accordo sull'introduzione dell'immunità parlamentare per 3 semplici motivi. La storia di questi ultimi anni ne dimostra la necessità. I parlamentari sono eletti direttamente dai cittadini, anche se proposti dai partiti, e il cittadino che legge o ascolta i gossip e le notizie è in grado di decidere per le successive elezioni diversamente. Le situazioni criminali vengono comunque prese in considerazione dal Parlamento, che può disporre l'avvio di una causa anche contro il parlamentare, giudicato dal Parlamento stesso. Stefano. Egregio direttore, Emma Marcegaglia vuole le riforme, ma il governo le sta già facendo, quindi invocarle mi sembra fuori luogo. Abbiamo una Costituzione obsoleta, un Presidente della Repubblica puramente rappresentativo e inutile, e un Presidente del Consiglio dinamico, capace, carismatico e con le idee molto chiare, sostenuto da ministri capaci, motivati, che mettono passione in quello che fanno. Tutto sta funzionando come gli elettori del centrodestra si auguravano. Purtroppo abbiamo una sinistra incapace, invidiosa e perfida che rema contro, nemica del popolo italiano. Mi auguro che anche Radio 24 non remi contro e metta passione anche nel dare una mano a questo governo, che è il migliore possibile. Non facciamoci illusioni, è il migliore possibile. Michele. Gentile direttore, si chiama perseveranza quando è per una buona causa, ostinazione quando è per una cattiva, diceva Stern. Io ho letto quello che propone il governatore Draghi, cioè l'innalzamento dell'età pensionabile. Una semplice domanda. C'è un solo parlamentare nel nostro paese che si senta in colpa per il fatto di maturare il diritto alla pensione dopo soli 2 anni e mezzo di legislatura? Tutti abbassano gli occhi provando imbarazzo? Oppure esiste un deputato, un senatore, un segretario di partito con un pizzico di dignità? Una delle vergogne nazionali più scandalose è questo privilegio ingiustificato e irragionevole. Nessun giornale, nemmeno tra i più aggressivi, ha mai proposto una bella raccolta di firme su questo tema. Si tratta di una montagna di miliardi di euro gettati senza senso. Marco. Caro Marco, innanzitutto una precisazione. Non è completamente vero che i parlamentari possono andare in pensione con solo 2 anni e mezzo di contributi. Di anni ce ne vogliono 5, non sono certo molti, e in parte questa quota si può raggiungere con versamenti volontari se la legislatura ha avuto una durata inferiore. Poi l'età minima per andare in pensione è ora di 60 anni, mentre in precedenza non vi erano limiti di età. Sono comunque 765 i titolari di baby pensioni che grazie ai 5 anni di contributi incassano un vitalizio di poco più di 3.000 euro lordi al mese. Il meccanismo ha un costo annuo di 30 milioni di euro, mentre sono 220 i milioni di euro destinati lo scorso anno da Camera e Senato alle oltre 3.000 pensioni degli ex parlamentari. Non si tratta quindi di una montagna di miliardi, ma comunque di cifre significative, soprattutto se si pensa che le indennità vengono corrisposte a fronte di contributi molto limitati. Ma al di là delle precisazioni sui numeri, resta un fatto. In questi mesi non si è parlato d'altro che di crisi economica, di crescita della disoccupazione, di difficoltà sociali. Sarebbe stato significativo se i parlamentari avessero dato il buon esempio, dimostrando di partecipare in qualche modo alle difficoltà del Paese. Ma quando andremo a votare non potremo nemmeno giudicarli, perché hanno tolto a noi cittadini anche la possibilità di esprimere le preferenze. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.